nel mezzo della Nelson Mandela Square a parlare di calcio fino a notte fonda con un grande esperto di calcio italiano e africano. Stefano Vigoriti, commentatore del calcio italiano per Supersport, canale satellitare che trasmette in oltre 50 paesi africani. Beh, quindi Stefano, mondiale quanto mai atteso dal tuo punto di vista questo? Atteso ormai da quasi 6 anni, da quando fu aggiudicato dal caro Sepp Blatter e da tutta il casato della FIFA. Sicuramente ci sono stati tanti problemi, tanti dubbi, tante persone sono rimaste in ansia per quanto riguarda questo tipo di mondiale, primo mondiale da effettuarsi in Africa. Io penso che adesso ormai la gente si sia resa conto che anche il Sudafrica può essere un grosso diciamo partner nel calcio mondiale, facendo appunto da host, da ospite per tutte le squadre del mondo, e penso che sarà una ottima esperienza che faranno anche le persone che ci verranno a visitare durante questo periodo. Sudafrica è sinonimo di calcio inglese, no? Per quanto riguarda il grande interesse degli appassionati del soccer. Tu che però commenti il calcio italiano, qual è l'appeal del nostro campionato a queste latitudini? Beh, diciamo che per prima cosa bisogna assolutamente ringraziare l'Inter quest'anno, lo faccio anche con un certo orgoglio essendo io interista, bisogna ringraziare l'Inter che ha sicuramente aiutato il calcio italiano a resistere a quello che ormai è diventato un calcio ricco, molto più veloce, molto più entusiasmante, molto più non si perdono più questi aggettivi, non si trovano più gli aggettivi per descrivere la Premier League. Continuo a pensare personalmente che la Serie A abbia qualcosa da offrire, però purtroppo come prodotto a livello mediatico, a livello marketing, è sicuramente scaduto negli ultimi anni, perciò diventa difficile vendere il prodotto Italia, vendere il prodotto Serie A tanto bene quanto il prodotto Premier, specialmente nel mondo anglosassone si riesce. Con la vittoria dell'Inter sicuramente abbiamo rialzato la testa, è un calcio che ancora oggi può dire la sua, può ancora battere i grandi colossi spagnoli e inglesi, e sicuramente da questo noi possiamo solamente trarre vantaggio. Io posso continuare a lavorare parlando del calcio italiano in un contesto che è sempre più inglese, sempre più diciamo ambientato dove c'è chiaramente più ricchezza, e oggi come oggi la ricchezza si può solamente quantificare nella Liga e nella Premier League. Ecco, invece per il pubblico africano, per gli appassionati africani, che cosa piace di più del nostro campionato? Beh, diciamo che il nostro campionato ha ancora molti, molti tifosi per quanto riguarda il tifoso africano, anche se, ripeto, nella stragrande maggioranza sono squadre inglesi che vengono supportate dove viene fatto il tifo, però sicuramente il calcio italiano ancora viene visto come Juventus, come Milan, e ripeto, come l'Inter negli ultimi 4-5 anni è sicuramente con Mourinho è salito a diciamo ai vertici tanto quanto il Milan e la Juventus hanno fatto negli anni scorsi. Qualche particolarità della passione africana per il soccer, tu che hai commentato tante partite, qualche immagine che ti è rimasta in mente? Beh, io non mi potrò mai scordare la partita dello Zambia che ha fatto un amichevole in Inghilterra e hanno dovuto far giocare tre nazionali dello Zambia che erano spettatori penso che abbiano giocato a Upton Park a Londra, ed erano solamente in 11, hanno dovuto prendere tre persone dai tifosi e farli giocare come nazionale dello Zambia. Queste cose sicuramente possono succedere solamente in un contesto africano. Un'ultima battuta, il mondiale che chiaramente chiama le squadre africane come protagoniste, tu da questo punto di vista come la vedi? La vedo dura. Sicuramente il Sudafrica ha dalla sua parte un tifo che sarà sicuramente acceso, rumoroso con le vuvuzelas, però diciamo come qualità sicuramente ancora non ai livelli delle altre grandi africane come Costa d'Avorio, come Nigeria e anche Camerun sotto un certo punto di vista. Non penso che l'Algeria possa essere sicuramente un avversario da temere, e diciamo che sarà difficile per le africane oggi come oggi addirittura anche passare gli ottavi di finale, però io mi auguro che squadre come il Camerun e squadre come la Nigeria possano essere pronte, forse il Ghana potrebbe essere, ma solamente come outsider, possano riuscire ad arrivare ai quarti. Costa d'Avorio? A Costa d'Avorio oggi abbiamo saputo che Drogba non farà il campionato mondiale per via della frattura che ha avuto oggi al braccio. Penso che sarà molto difficile per una squadra, specialmente nel girone dove si presenta col Brasile e col Portogallo, sicuramente difficilissimo. Ripeto, qualche opportunità per il Camerun, qualche opportunità per la Nigeria, per un pedigree che sicuramente è più importante di quello della Costa d'Avorio, però sarà difficile.